zanzara veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Si affeziona a voi perché non può sentire altre parti dove tutto è leccato, invece qui culo è culo, capito? Questo è. Popolo della zanzara, popolo della radio, sembra incredibile, nonostante Ercecato, nonostante Buzzi, nonostante Mafia Capitale, nonostante ruberie di ogni tipo, nonostante l'ormai certificata incapacità dell'Italia di organizzare qualunque evento senza che si accompagni a scorribande di tangenti, eccetera, eccetera, qualcuno ha il coraggio di proporre Roma, e dico Roma, Parenzo, Roma, non dico, che so, Torino, qualsiasi non altra città. Non dire Milano, perché no, anche lì scandali anche lì, ce ne per sono carità, stati, per quindi carità, ma infatti nemmeno Torino bisogna citare. E anche a Torino, Olimpiadi Invernali, dice nulla questa frase? Ma Olimpiadi Invernali? Beh, in realtà no, comunque... Cioè, ci sono persone che hanno il coraggio e non mi chiamate disfattista. Sì, no, no. So già cosa stai per dire, sei un disfattista. Certo. Nessuno, non, c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di... Sì. Di dire dobbiamo fare le Olimpiadi. Beh, giusto, ma le Olimpiadi a Roma. Giusto. Ma tu ti rendi conto di quello che potrebbe accadere? Le Olimpiadi delle ruberie fai. Ma dico, ma sei impazzito? Tu non sei d'accordo, sei anche d'accordo, perché tu sei un ottimista. Ma non fai più niente a un certo punto. Sì, inizi la moratoria, non bisogna fare più nulla. Ma allora bisogna azzerare la classe. Niente, allora, se niente. Vuol dire perché che abbiamo una classe politica che è ontologicamente no, corrotta. No, ma basta, le manifestazioni in Italia non si possono fare. Ci vuole una moratoria di 50 anni per le manifestazioni. Sai quanti soldi porterà Expo ad esempio da noi in Italia, questa, senti, cosa qua, per un anno quanti soldi arriveranno? Vabbè, ragazzi, turisti, apriamo questo grande sondaggio. Olimpiadi sì, Olimpiadi ma no, ma certo che parte sì, parte che subito. Fra 10 anni magari siamo tutti morti, per cui non me ne frega nulla. Tu sei morto, questo è sicuro, non me ne può fregare di meno, però si decide entro un anno più o meno. Renzi, sentiamo Renzi, dai, l'Italia candidata a Roma, candidata alle Olimpiadi, amico mio. Annuncio che assieme al CONI saremo a fianco perché da qui al settembre del 2015 l'Italia presenti la propria candidatura ai Giochi Olimpici del 2024. No, ma la cosa più comica viene dal sindaco Marino. Il sindaco, a questo proposito, il sindaco Marino cosa dice? Che Roma ha un bilancio sano. No, ti giuro, Roma ha un bilancio sano. Non credo. Abbiamo le carte in regola, un bilancio sano. Questo sì, certo. Grazie negli ultimi anni a ben 4 miliardi sganciati da noi contribuenti per le ruberie, per le clientele, per l'incapacità di amministrare. La mia amministrazione ha tagliato 550 milioni di sprechi, adesso abbiamo un bilancio sano, abbiamo tutte le carte in regola e poi alle spalle 3.000 anni di grandissima storia. Beh, 3.000 anni di grandissima storia è meravigliosa. Abbiamo alle spalle 3.000 anni di grandissima storia, una cosa pazzesca, dai. Amici miei, siamo al top. No, non siamo al top. No, insomma, non siamo al top per nulla. Guarda, ti prego. Ci sta tutta la battuta di Tonino Di Pietro questa mattina al signor Milan quando ha detto insomma, un'occasione per allargare le carceri, per costruire più carceri in Italia, le Olimpiadi. Tonino Di Pietro, tornato, eh? Io personalmente da italiano mi auguro che ci possa essere una cosa del genere, anche perché nel frattempo se si può anche fare qualche struttura carceraria in più. L'Olimpiadi a Roma, oppure di avere qualche struttura carceraria che non si riesce mai ad avere, facciamoci pure l'Olimpiadi. Non si capisce se c'è un riferimento a... Ci ho detto a me la che fai l'Olimpiadi d'Italia dei Valori. No, ma non si capisce. L'Italia dei Valori abbiamo detto fare costruire il carcere. No, detto. No, ma sei uscito dall'Italia dei Valori, Torino? Tu, dall'Italia dei Valori, abbiamo detto, noi abbiamo detto che aveva Zanzara. Ma noi abbiamo, cosa? Abbiamo messo insieme l'Italia dei Valori prima di mettere insieme le carceri, farle costruire. E la terra va costruita, la rata, la terra con la nonna. Le carceri. Boh. Sinistra se le danno di santa ragione. Ah, il PD dice. Sì, devo dire che è una cosa profondamente noiosa questa cosa qui, perché in Italia non c'è... Noiosa ma vera però. Sì, vera, c'è una minoranza del Partito Democratico che si è anche un po' allargata, il sostegno dei sindacati, almeno di del principale sindacato, e forse ha il sostegno di una parte di quelli che vanno in piazza, non si capisce quanto possa contare questa cosa, ma la cosa più incredibile, al di là delle ragioni dei torti, non me ne frega nulla, è che... Non c'è mai rassegnazione in chi perde in Italia, cioè la minoranza che perde ed è minoranza dovrebbe serenamente accettare il fatto che è minoranza, cioè dire la propria, poi si decide a maggioranza. Beh, infatti così stanno facendo. Sì, però sempre con mugugni, scissioni, cioè come dire, ipotesi di scissioni, eccetera eccetera. Ora Renzi avrà anche i suoi modi un po' burberi, un po' arroganti ogni tanto eccetera. Però, amico mio, hai perso la tua battaglia, caro Fassina. Avete perso. Adesso ci dovete stare. Fate governare questo qua. Fate. Insomma, no. E poi vediamo. Fra un po' di anni, vediamo. Tra un po' di anni, non subito, rese dei conti, forse scissioni, compromessi. Perché poi alla fine Renzi si arrenderà e farà compromessi a ribasso. E questo è il pericolo vero che c'è. Il vero pericolo. Sentiamo Fassina. È inaccettabile la delegittimazione morale e politica che ogni volta fai in queste sedi di chi ha posizioni diverse dalle tue. Non sto in Parlamento per frenare, per boicottare, per gufare, per far fallire le riforme. Sto in Parlamento per esprimere il mio punto di vista costruttivo come quello tuo e come quello di altri. E non ti permetto più, è l'ennesima volta che lo dico, di fare le caricature di chi la pensa diversamente da te. È inaccettabile. Non ti permetto più, è l'ennesima volta che lo dico, di fare le caricature di chi la pensa diversamente da te. È inaccettabile. La minoranza non fa diktat, la minoranza non cerca il congresso anticipato, la minoranza non vuole far finire prima il governo del 2018. Se vuoi andare a elezioni, dillo chiaramente, assumiti la tua responsabilità e smettila di scaricare la responsabilità sulle spalle di altri. Ti voglio segnalare, caro Parenzo, adesso non voglio fare la cronistoria dei reati commessi da nomadi in Italia, che non è che è tutta, che non è che ci si limita a rubare dal portafoglio, ogni tanto ci sono bande più organizzate tra i rom. Mi segnalano amici dalla Lombardia, in particolare da Varese, che è stata realizzata l'operazione Ariete da parte dei carabinieri con 8 arresti all'alba. Benissimo. Il capo della banda era nella consulta comunale sui nomadi ed era il leader della comunità di via Negrotto. Distruggevano le colonnine self-service usando camion e trattori. No, cioè, criminali sono. Facevano degli assalti ai benzinai. Questi sono criminali, certo. Chi mette chiaro, no? Chiaro. Questi sono criminali, ma una non c'è pericolosa banda di rom a Milano che è stata bloccata in 6-8 uomini. Cioè, non è che è solo gente che va a rubare dentro, no, nelle metropolitane, eccetera, o fa la carità per strada. Qualche volta ci sono anche delle vere e proprie bande. Come dappertutto, bande. Come dappertutto. Sai che non ci posso credere che l'Italia oggi è candidata alle Olimpiadi 2024, una cosa che non ci posso credere. Ma è una bella credere. Notizia invece. Ma è una notizia orrenda, pessima. È una notizia meravigliosa perché non è che saranno puoi bloccare quelli, tutto perché c'è qualcuno che saranno contenti quelli che vogliono guadagnare sugli appalti. Ma allora cosa fai? Contenti. Blocchi un paese e non fai più un cazzo perché c'è qualcuno paese, che ruba? Non che se non fai le Olimpiadi sei bloccato? Beh, le Olimpiadi sono una grande occasione per fare delle cose, come ci fu il Giubileo e fecero la metropolitana, fecero dei lavori di ristrutturazione della stazione Termini di Roma. Cioè, sono occasioni per costruire delle robe, che poi qualcuno rubi purtroppo quello sì, è vero. Allora, un bar vicino Verona, te lo ricordi, Parenzo? Un bar Verona. Il bar dei fascisti. Emette uno scontrino con la faccia di Mussolini impressa. Come no? Abbiamo chiamato la proprietaria, settimana scorsa, sentite. Sì, Maristella Finezzo? Sì. E lei? Sì. Senta cara, è lei che fa gli scontrini con la foto del Duce? Sì, sono io. Non si vergogna, cara? No, non mi vergogno perché è un personaggio storico, io non ho mica messo che sono un nazista o non... Io mi indigno, cara la mia signora Maristella, perché, stella mia, se lei mette gli scontrini di cui non c'è bisogno con la foto del Duce, con tutti i danni e i morti che ha provocato Mussolini, fa una cosa che si chiama apologia di fascismo. 15 milioni di morti. Hitler non c'entra niente con me. Mussolini ci ha rimesso la vita per non ascoltare più quel, ma che bisogno c'è di metterla sugli... Scusi, ma cara, che cosa vuole? Guardi che io non l'ho mica fatta la guerra, sa. Stella, mi scusi, ma che bisogno c'è di metterla sugli scontrini del bar? Della carta, ma del bar? Ma lei cosa gliene frega? Quando viene qua, vado in un altro bar, ce ne sono 80, Cerea. Stella. Ma ovviamente abbiamo richiamato. Bar Armando. Sì, buonasera signora. Pronto, signora Maristella? Pronto, è ancora lei, sì. Sì, ma non sono io, non sono quello di prima, sono un suo amico. Anch'io ho preso in mano questo scontrino con Mussolini, ma signora, non si fa. Io lo dico con più calma del mio amico, ma non si fa. Sì, ma ascolti, guardi che io non voglio... le spiego un attimo la mia protesta. Non è che io voglio che ritorni il ventennio fascista. Ma signora, lei mette nello scontrino, vorrei, Mussolini. Ma forse in Italia un po' più di rigore. E questo, se avete letto l'articolo sul giornale, sì, che ritorna un attimo ad avere più valori, di non avere paura di andare fuori da... Allora lei continua a chiamarmi per dirmi se non mi vergogno. Mi vergogno dell'Italia che ho adesso, non dell'Italia del ventennio. E i Rom? E buonasera. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Gli amici della Zanzara di solito sono sempre molto seri. Caro Parenzo, sentiamo se ci risponde, Chi è questo? Una signora, no? Una signora che lavora in un ministero. Sì. In un ministero. Cucù. In un ministero importante. Molto importante. Allora, se no è di un personaggio coinvolto, vabbè, lasciamo perdere, va. Non lasciamo troppe tracce, no? Iniziamo con voi e iniziamo con le telefonate. Gualtiero Pavia. Gualtiero? Siamo in attesa. Carlo Rom, sì, Carlo Rom, Carlo Milano, vai. Carlo Rom, Carlo Roma, Rom. Carlo, vai. Ma com'è Carlo Rom? Carlo Rom, ti voglio soprannominare Rom. No, dai. Allora, dunque, io faccio una premessa, però non voglio che Parenzo mi denuni, mi quereli, me lo può garantire? No, questo no. Non si può. Ormai no. Okay. Vabbè, provo lo stesso. Dica la stronzata, forza. Io credo che Parenzo sia razzista. Quello sicuro. Okay. Ed è razzista sui Rom, e vi spiego perché. Perché di voi due... Quello che è razzista, che parla di una comunità come se fosse una cosa unica, è lui, non è Cruciani. Perché lui pensa che i Rom, diversamente dagli italiani, da tutti gli individui che vivono su questo pianeta, non possano migliorare. Lui dice, beh, sono lì e io... Ma chi è che dice questa stupidaggine? Parenzo. Ma perché lei la mattina non usa il cotton fioc, vero? No, lei ha un problema di cerume verde nelle orecchie, probabilmente. Perché ha. Ho qui il mio legale di fianco. Ma qual è il punto? Dimmi, mi passi il suo legale, no, allora, perché lei non è capace di intendere di volere. No, però non ha mai sostenuto nulla di tutto questo. Perché il punto è esattamente questo. Perché il problema è che lui ritiene che queste comunità debbano rimanere così come sono. Per ma chi l'ha detto? Ecco, mi tocca querelarla. Mi dispiace. Partita la querela. Trucco. No, partita. Vabbè, Carlo, dai, andiamo al sodo, su, ma forza. Ma che dice? No, ma è partita la querela ormai. Io lavoro tutto il giorno, ho paura adesso di sedere. Vabbè, ma non mi sembra una cosa particolarmente grave. Ma intanto mobilitiamo Trucco, l'avvocato. Ecco. Vabbè, Sì, mi sono stufato. Io credo che la... Ecco qua, Davide, basta con queste puttanate. Dai, forza, Carlo, non ho capito. Qual è il punto? Qual è il punto, Carlo? Il punto è questo, che i rom vanno trattati esattamente come tutti gli altri. Ma a me lo dice. E chi Carlo ha detto il contrario? No. A te lo dico. Per Parenzo bisogna fare la mediazione culturale, maggiore accoglienza e tutto. Qui non bisogna fare nessun tipo di accoglienza. Bisogna eliminare i campi rom. Avvocato, sono Parenzo, scusami, ti chiamo dopo, devo querelare uno. Grazie. Mannaggia, beh, però io voglio dirvi questo. Grazie, avvocato. Cosa, gli ultimi 30 secondi. Io vorrei che Parenzo andasse con le stesse condizioni economiche e lavorative in Romania a vedere se gli danno un mediatore culturale. A me piacerebbe tantissimo questa cosa qui, perché vorrei vedere se poi c'è un mediatore culturale che lo aiuta. Guarda, il punto fondamentale è uno, tutte le associazioni intorno ai Rom servono per quello che abbiamo visto, servono a fare ingrassare qualcuno. Assolutamente. Non parlo delle singole persone, parlo della, come dire, in generale di quello, servono per dare dei posti di lavoro, per eccetera eccetera. I campi Rom non devono esistere. Ma l'integrazione esistono, è un tema, esistono le singole persone, le singole famiglie che devono fare un lavoro come tutti gli altri e devono procurarsi le case, gli alloggi come tutti gli altri. Altri discorsi non esistono. Andrea da Salerno. Andrea? Non c'è. Piero da Roma, dai. Buonasera. Buonasera, dica. Mi avete richiamato perché io parli di come... Un attimo solo, perché c'è Bitonci, il sindaco di Padova, che propone una cosa, propone... una raccolta fondi, sì, la bitonciata si chiama anche questa. Raccolta fondi per cacciare gli immigrati, in sostanza, sì, cioè per rimandare indietro gli immigrati. Sì, secondo te è una cosa, ti piace così? Bah, no, sono a molti... a voi piace un mondo così? Se qualcuno però vuole dare dei soldi a per voi fare... piace un mondo così? Mondo... A me fa, come dice Adinolfi, che mi fa Adinolfi, aiutami tu, a me mi fa piace un mondo così, a me fa cagare un mondo così, un mondo vabbè, così non esageriamo, cagare. Se qualcuno vuole dare dei soldi per rimpatriare gli immigrati, non c'è conto? Niente di male, basta che non siano soldi pubblici. Ma tu li daresti? Da ma privato? Non li darei. Sentiamo Bitonci, no, io non li darei i soldi per far rimpatriare gli immigrati. Allora, ti rendi conto delle proposte di Bitonci? Fermo. Io penso che moltissimi privati padovani, io compreso, siamo disposti a mettere delle risorse nostre, quindi non comunali, per pagare biglietti di pullman, di treno, perché queste persone tornino a casa loro. Cabare. Allora, Piero, Roma. Cabare. Vai Piero, veloce, vai. Che mi avete richiamato perché io parli di come le circostanze della vita mi hanno fatto scontrare. No, noi non abbiamo richiamato nessuno, è lei che ha chiamato. Vada al sodo, sì, che cosa vuole dire? Mi sono scontrato 34 anni fa con Buzzi. Tra l'altro, a proposito di Buzzi, volevo ricordare. Io non so che cosa lei ha fatto 34 anni fa, Piero. No, io non ho fatto niente. Lui, aspetti, volevo ricordare, voi avete parlato prima di Marino. Marino mi pare che abbia dichiarato in questi giorni che non aveva mai conosciuto Buzzi. Io ricordo invece perfettamente che il primo stipendio di Marino, sì, ma quello è già stato, fa, è già stato devoluto alla cooperativa 29 giugno. Questo l'abbiamo ricordato anche noi la settimana scorsa più volte, allora, e peraltro non è mai stato dato, fa, non è mai stato dato. 34 anni sì. fa, 40 giorni prima che questo venisse arrestato per quello ma che chi? Dice Buzzi, Salvatore Buzzi. Sì. Ok, allora? Io ho avuto occasione di conoscerlo. Perché lui era fidanzato con una diplomatica brasiliana. È un reato quello. Vabbè, poi? Aspetti, che cosa aveva fatto? Lo conoscete il meccanismo che si era inventato per turlupinare la banca e i correntisti della banca? No, quello degli assegni. Lui era, sì, vabbè, un dipendente dell'agenzia. Sì, ma adesso non possiamo ricapitolare quello, no, che faceva, vabbè, Buzzi. Qual è la sua conoscenza di Buzzi? Cosa, come l'ha conosciuto? La conoscenza è che questo qui venne nell'ufficio dove io lavoravo, ordinò una BMW, o meglio non lui, questa ragazza. 15 giorni dopo mi ritelefonò per chiedere se era andato tutto avanti, sì. 40 giorni dopo io vidi sui giornali tutto quello che questo qui aveva fatto, e fui costretto ad andare all'ambasciata brasiliana a Roma. Scusi, ma perché dovrebbe essere, perché dovrebbe essere interessante il fatto che si voleva comprare una BMW 34 anni fa? Sì, qual è il punto? Che veramente non era questo che a me e che interessava, cosa? Era dire che questo aveva inventato un sistema particolare, ma poi aveva commesso un crimine efferato. Quale crimine? In maniera assolutamente inutile, perché se manca lui avesse soggetto, verbo, non si capisce nulla, denunciato, ma lo sappiamo, non gli sarebbe successo niente, perché la banca non l'avrebbe mai denunciato, non sarebbe mai andato in galera, avrebbero tacitato lui. Le do un bacio in fronte e la accarezzo fortissimo, ci sentiamo dopo 19:15. Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. È un freak show, ma lo dico con tutto l'amore. Dovete parlare di fighe, dovete parlare di matrimoni, assolutamente dovete parlare di quelle cose lì. Ma di fiori d'amore, ma di che, ma cosa stiamo dicendo? Ma per cortesia. L'ultima grande controversia nel mondo della politica. Ma il nome del Presidente della Repubblica è contenuto o no nel patto del Nazareno? La gente si interroga, in macchina tutti pensano a questo, ma il nome del prossimo Presidente della Repubblica sarà il frutto di un accordo tra Renzi e Berlusconi e già contenuto nel patto del Nazareno? Diatribe, discussioni, interventi, polemiche. Berlusconi. Il patto del Nazareno, come conseguenza logica, c'è anche il fatto che non potrà essere eletto un capo dello Stato che a noi non sembri adeguato all'alta carica istituzionale che deve ricoprire. E ovviamente le smentite del Partito Democratico, Serracchiani. Oggi Berlusconi dice che il nome del nuovo Presidente della Repubblica sta nel patto del Nazareno, ma è così? Assolutamente no, abbiamo detto per tempo e con chiarezza che in quel cosiddetto patto del Nazareno ci sono degli impegni importanti, questo sì, che riguardano le riforme costituzionali e le riforme istituzionali. Provincia di Vicenza, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo ricordare due cose. La prima è che la Grecia, poco prima di saltare per aria, aveva proprio organizzato le Olimpiadi e gli erano costato quello che è successo, che è sotto gli occhi di tutti. La seconda cosa è che Marino c'ha 3.000 anni di storia che lo spingono da dietro a fare le Olimpiadi. Questa è la verità. Cioè, non ho capito. Lo spingono da dietro. Cruciani, lei che è uno svelto dal punto di vista sexy, cioè, lo spingono da dietro, cioè che li, ho capito, ma insomma evidentemente la metafora non è così riuscita, però non ho capito il volo, cioè che vuol dire, cioè 3.000 anni di storia che sono una penalizzazione, che sono una, sono un handicap. Lo spingono da dietro non perché lui ha il bilancio trasparente e in linea come ha detto. Non ci intendiamo, vero? No, per l'esatto contrario, no, ma nemmeno Parenzo ha capito, cioè sia più chiaro. Nulla, nulla. Non ha capito, chiedo scusa, ma Parenzo è grave la questione. No, ma scusi, Andrea, sia scusa, più ma chiaro, sono che vuol concentrato, dire? Ma non... Che vuol dire, scusi, cioè 3.000 anni di storia che... Voglio dire che i 3.000 anni di storia che ha Roma spingono da dietro Marino. Ma guarda, dove francamente non ho capito. Cioè, spingono, non ho, cosa vuol spingono dire? Da dietro Marino a fare le Olimpiadi, non ho capito. Cioè, che vuol dire? Spieghilo, spieghi chiaramente. Non è che. Cioè, ma lei come si sente quando la spingono da dietro? cioè, che, insomma, che buttano, cioè, che se spingono da dietro, cioè che lo buttano dal dirupo, che lo buttano da, che lo fanno cadere, che cosa? Cioè, ma guarda che è incredibile, cioè, scusi? Andrea? Oh, pronto? Non c'è peggior sordo di chi non può sentire. Ma, no, ma non c'è nulla di misterioso, non abbiamo capito, non siamo imbecilli, davvero, non abbiamo scusi. Capito. Ma se non avete capito, vi mando un fax con un disegno. No, ma ci mando, no, lo faccio adesso, ci spieghi adesso. Una mail anche. E nella mail non si riesce a disegnare, Parenzo. No, ma al di là delle mail e dei disegni, mi spieghi esattamente, Andrea, spiegami perché, che cosa significa questa cosa. Marino ha 3.000 anni di storia che lo spingono dietro, cioè? Lo spingono da dietro, nel senso che lo spingono da dietro a fare le Olimpiadi. Ma io non continuo a non capire e vi assicuro che ci sono molte persone intorno a me che mi dicono no, non capiamo. Non capiamo, no. Continuano a fare dare la testa da destra verso sinistra. Esatto, esatto. Andrea. Allora vi manderò una mail. No, ma me lo spiegamelo adesso. Se non riuscite a capire, ragazzi. Ma spiegamelo, spiegamelo a parole tue, questa metafora, questa fantastica, spiegamelo tu. Cioè, sarà una fantastica metafora per dire che quando uno si fa spingere da dietro, che c'è uno dietro che lo spinge, no? E normalmente cosa fa uno da dietro quando spinge quello davanti? Che fa? Se lo inchiappetta, no? E dunque? E dunque, chi inchiappetta chi? Non ho capito, chi sono i soggetti? Chi inchiappetta chi? Il paese viene inchiappettato dall'organizzazione, ragazzi. Ah, vabbè, il paese viene inchiappettato. Marino, ma non era Marino spinto da dietro, scusami, non è Marino spinto. Ho capito, ma come sindaco di Roma, ragazzi, cioè, e io dunque? La vedo. Chi è inchiappettato? Marino viene inchiappettato, giusto? No, Marino viene inchiappettato e di conserva lui spinge per fare le Olimpiadi, ma non è come pensa Parenzo la panacea per il nostro paese fare le Olimpiadi. Almeno mi chiedo scusa, ma l'efficacia di questa immagine da lei utilizzata? Vabbè, Andrea, ti ringrazio lo stesso. Ivan dalla provincia di Mantova. Sì, sono Ivan, perdoni, sono un po' emozionato. No, senza emozione, dai, veloce, vai, forte. Sì, comunque io sono allibito, anch'io scioccato e concordo con lei, Cruciani, sul fatto che un paese come l'Italia, in queste condizioni, proporsi alle Olimpiadi, quando è evidente che in qualsiasi grande evento, vedi Expo, vedi il Mose, cioè la nostra classe politica di incapaci, incompetenti, corrotti, criminali, non fa che creare opportunità, non merita, non deve neanche pensare di proporsi per le Olimpiadi. Noi siamo un paese fallito che dovrebbe essere commissariato, gestito da altri paesi, almeno per i prossimi 20 anni. Ciao, ciao. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. Cosa deve dire? Dopo 16 ore di assedio, la polizia australiana irrompe nel bar e uccide il sequestratore, un iraniano con precedenti penali, un morto tra gli ostaggi. Il dramma di Sydney, il gesto di un folle isolato, ma nel paese da mesi l'ISIS è considerato una minaccia. Almeno 150 australiani arruolati con gli integralisti. L'Italia si candida per ospitare le Olimpiadi del 2024, un progetto con al centro Roma ma che toccherà tutta l'Italia. Salvini è una follia. Ieri l'assemblea del PD e le polemiche sull'Ulivo, oggi il faccia a faccia di 2 ore tra Renzi e Prodi. Al centro, dice Palazzo Chigi, economia e temi internazionali. Mafia Capitale, il prefetto nomina la commissione d'indagine sulle attività del comune di Roma. Oggi fra gli arrestati anche 3 ufficiali di Marina. All'indomani degli arresti dei giornalisti, Erdogan annuncia misure anche contro i giudici e risponde alle critiche dell'Europa. Pensi ai fatti suoi. Ed esce nelle sale l'ultimo film di Ken Loach, la storia vera di un attivista irlandese che negli anni 20 difende una sala da ballo, punto d'incontro di un'intera comunità. Verona, Luca! Eccoci qua! Dimmi! Allora, volevo dire che questa cosa qua delle sfigge del Duce sugli scontrini sì. È una fregna, non interessa a nessuno. Beh, questa cosa qua non è apologia del Ma chi ha detto che è apologia? Chi ha detto che è apologia? È una questione che non c'entra niente. Bisogna anche evitare di esagerare su questi passaggi. E poi direi di più, ci vuole un po' di revisionismo storico, perché questa legge scelba ormai va collocata nel momento in cui che era nata. Vabbè, poi ma no, essa, abbiamo... è lei che la sta facendo seria questa cosa, però, eh? La revisione, la storia, eccetera. C'è una signora in un bar in provincia di Verona che emette degli scontrini col volto di Mussolini. Ecco, allora, se è una trovata e noi andiamo per un po' a rompere le coglioni, punto. Sì, però, se è una trovata per far parlare del suo... la prende seriamente, pure lui la prende seriamente. Ma come la vuoi prendere? Ma anche i giornali che hanno riportato la notizia oggi mi pare che l'abbiano presa sul serio. Ma ognuno fa quello che cosa vuole. Cosa vuol dire sul serio? Vuol dire semplicemente che se è una trovata per far pubblicità, pessimo gusto. Ma vuoi arrestare la barista? No, mandarla a quel paese, sì, e magari mandargli una bella ispezione dei NAS per vedere se sistema se le cose che ha messo. Tu ormai vai, querele, ispezioni dei NAS, carabinieri. Sì, mi sono rotto le scatole. Ovunque, quando uno mi rompe le palle. Ma non è un mondo perfetto, non esistono i mondi perfetti. Esiste pure una signora. L'ispezione dei NAS. Esiste. Che toglie la roba del duce. Esiste una signora, adesso la voglio difendere. Prima mi ero incazzato l'altro giorno. Sai che novità? Oggi la voglio difendere. Una signora emette uno scontrino in un bar con l'effigie del duce. E allora qual è il problema? Sono affari suoi, se uno non ci vuole andare, non ci va. Si fa pubblicità sui morti. Ma si fa pubblicità su non sarebbe il signor Mussolini. Sul duce, sul duce che ha provocato migliaia di morti. Se tu vuoi andare in quel bar ci vai. Se ti fa schifo ricevere lo scontrino. Ti mando il NAS. Ma che c'entra il NAS? Adesso ci faccio parlare tra poco. Vediamo se mandi il NAS. Non so se sia apologia di fascismo, fermi questo tutti, si può verificare. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Ma lo sai, David, una cosa? Adesso te la dico. Allora, prima ero critico anch'io, adesso davvero apprezzo questa signora. Perché non si tira indietro, combatte come una leonessa. Maristella Finezzo, proprietaria del bar Armando, quella dello scontrino col duce, ma alla fine, ma chi se ne frega? Ognuno ha le sue. Non è tutto chi se ne frega. Ma chi se ne frega? Fa benissimo. Ma scusami, ma di fronte... cosa... se uno facesse, ad esempio, che so io, in un bar di Cogne per attrarre ma i turisti, bene, ma sono se uno facesse lo scontrino con la signora Franzoni, ho citato un caso di cronaca chiuso per non lucrare su un caso di cronaca aperto. Ma mettiamo a Cogne, una pazza, una barista, ma che c'entra adesso? Si mette a fare. Sto facendo un esempio. Si mette a fare uno scontrino per parlare di sé, per attirare gente. Una foto della Franzoni, che vuol dire? Questa per attirare gente, cioè farebbe una cosa macabra, schifosa, lurida, deprecabile, io credo. Ma questa è una del cosa bar, storica col volto di Mussolini. È una cosa storica. Una cosa divertente, simpatica. Aspetta che rido un attimo. Aspetta un attimo. Fammici parlare bene. Fammici parlare di nuovo. E che è successo al bar adesso? Non risponde nessuno. Oh, signora Maristella, io la voglio abbracciare fortissimo perché l'ho criticata nei giorni scorsi. Però devo dire la verità, che questa cosa qui alla fine va bene, cioè è una cosa goliardica, divertente, questa della faccia col duce, è veramente, cioè alla fine perché tutte queste critiche, giusto? Ma lei è quello dei R24? Che cos'è? È uno dei due di R24. Sì, sono Giuseppe Cruciani. È quello stronzo, diciamo, io sono quello che l'ha criticata invece. Io devo dire la verità, signora, ho riconosciuto la voce. Ci ho ripensato, signora. Un gran bel parlare. Beh, noi parliamo sempre, sai, è il nostro mestiere. Però devo dire la verità, ci ho un po' ripensato su questa cosa qua. Perché, perché lei fa benissimo alla fine, signora, fa benissimo. Perché che male c'è? Mette la foto del duce lì, si è fatta anche pubblicità. Ognuno mette sullo scontrino quello che vuole, no? Ma lo penso per davvero, sì. Lo penso sul serio. È Parenzo che è scandalizzato ancora. Va bene, la ringrazio. Ringrazi Cruciani. Vuole mandare una INAS, che cosa vuoi fare? Parenzo, cosa vuoi mandare in bar? No, reputo scandaloso che uno per farsi pubblicità usi la foto di un dittatore. Ma guardi che ha sbagliato tutto, io non ho fatto nessuna pubblicità. E cosa ha fatto? Per amore perché del duce, peggio ancora. È venuto un signore nel mio bar e ha fatto un esposto al giornale L'Arena. Molto e bene. Mi sono arrivati qua i giornalisti. Io non ho chiesto perché niente. Lei l'ha messo? Perché ha messo la foto, il viso del duce là sullo scontrino? Così, perché a ottobre sì. La l'anniversario della marcia su Roma. Sì. E io tutti gli anni, da quando ho il bar, sì, ci metto la foto del Duce. Che il schifo. Mese di ottobre. Oh. E mi viene da vomitare. Ci metto Buon Natale. A Pasqua. Buon Natale è un corno. Con la foto del Duce. Quest'anno. Quest'anno. Sì. Lei continua a parlare e non mi lascia mai finire il discorso. No, vada. Quest'anno sì, mi sono dimenticata perché ho avuto delle altre cose da fare, da pensare, sì, certo. E questo signore un bel giorno arriva e va al giornale all'Arena. Bene. Dicendo che è scandaloso e qualirà. Però io non vedo cosa ho fatto di scandaloso. Ha messo la foto quando di un dittatore sanguinario, schifoso. E le magliette col c'è, e cosa e c'entra? Questo col... cioè io non vedo per quale motivo si è, devo ma Prezzo, ma gli vuoi ma perché è l'elogio di una dittatura, cara signora, è l'elogio di una dittatura. Ma sembra che non siamo in dittatura. Scusi, non ho capito, lei dice che adesso non siamo in dittatura. Non ho capito, ma no. Lei guardi che il nostro governo ha fatto commercio di carne umana. Come, scusi? Mi vergogno. Io penso che lei, che ho detto, glielo ripeto, io penso, anche se sono in io mi vergogno radio, di quello che lei mi ha fatto. Mi vergogno dell'Italia che ho adesso, dei nostri politici. Oh, ci vorrebbe, di quello mi vergogno. Ci vorrebbe che cosa? Il Duce? No, ci vorrebbe un altro Duce. No, sì, no, come no? Solamente se non lo pensa, un allora po' di onestà da parte di tutti. E beh, il Duce era onesto. Si mettono la mano sulla coscienza, sì, e guardino quello che fanno. Signora, tutti quei suicidi, sì, che ci sono stati. Perché sono pieni di debiti, perché non riescono più a far fronte alle cose. Duce. Di quello mi vergogno, signore, non del Duce. Io condanno tutte le leggi razziali, sì, io condanno la guerra, sì, condanno tutte quelle cose. Sì. Ma questo che, quello che sta facendo il nostro governo adesso, sì, è praticamente la stessa cosa con gli immigrati, commercio di carne umana alla faccia di Hitler, diavolo can. Adesso andiamo. Va bene così, dai. Scusi, no, va bene, quando così con le vostre idee, non va bene niente. Signora non Maristella, va bene, signora Maristella, ma i Rom non le vengono a fare qualche visitino ogni tanto, i signori Rom? Ma guardi che io nel mio bar c'ho pieno di immigrati, c'ho pieno di Rom, ce ne abbiamo qua a Cerea, tantissimi di Rom. Loro si comportano bene, noi li trattiamo bene, io li tratto bene, io non ho mai avuto problemi. Se quello che fanno, lo fanno perché è nella loro natura, forse, chi lo sa. Chi lo ma sa? Se lo Stato, ma se lo Stato facesse qualcosa, non lo so. Comunque, signora, guardi, devo Italia dire la verità. Cominciamo col togliere quella foto del Duce da quegli scontrini. Ma no, ma fa bene. Ma la foto cominciamo del Duce, a lei che fastidio dà? Mi dà molto fastidio perché era un dittatore sanguinario. Ma fastidio, mi dispiace. Ed è un reato fare questo. Perché a Predapio, che è un'amministrazione di sinistra, e ci campano da 50 anni. Cosa, quindi lei l'ha fatto per Duce, soldi? Gli hanno mai detto di toglierla? Quindi lei l'ha fatto per soldi? No, io l'ho fatto per soldi, è lei che lo dice. Se l'ha fatto per soldi è una furbona, se l'ha fatto perché le piaceva Mussolini, peggio mi sento, furbona. Ma vuoi mandare l'ispettore dei NAS addirittura? Dai, beh, sì, un ispettore dei NAS, mandarli un attimo a fare una visita. Mussolini. Qualcosa pizzicano magari. Ma tanto. Da bravo comunista, vabbè, lei distorce. Ma non sono comunista, beh, sì, dico, sono antifascista, non comunista, signora. Sono antifascista, non comunista, signora. No, antifascista difetto, e vedo che ce n'è ancora bisogno perché fascisti in giro ma, ce ne scusi, sono. Lei lo prende, è andato a scuola. Quello che prendo io è andato a scuola. Lei è andato a scuola? Abbastanza, sì, abbastanza. Ah, meno male. Liceo classico e quant'altro. E poi quando va ce l'ha la sanità? La sanità ce l'ho, sì, perché non pago le tasse. Bene, allora, vede, di chi devo ringraziare? Il povero diavolo l'ha fatta anche per lei. Diavolo sicuro, povero diavolo. Tanto. Messo a testa in giù. Com'era quella canzone? Mi fa una gran pena. Comunque, com'era quella canzone? Mi fa molta pena lei perché è ancora fascista oggi. Io a casa mia faccio quello che voglio. Sì, sì, faccio. Com'era quella canzone? Casa. Signora, com'era quella canzone? Povero diavolo, che pena mi fa. Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio, resisti, ti prego. Mi sono innamorato di questa Maristella, Parenzo. Beh, se ti piace così. Mi sono innamorato di questa Maristella. Non avevo dubbi, fine, gusti. Ma alla fine. Chi si somiglia, ma si piglia. Ma no, ma a me non me ne frega chi niente del Duce. Anche se avesse messo il CE, ma chi se ne frega. È una grandissima, dai, una che se ne fotte, fa orrore, dai. Mi fa orrore. Articoli sui giornali e se ne fotte, continua. E io ancora mi indigno per qualcosa, sai com'è? Comunità cristiane indignate per lo stilista Tom Ford. E qui andiamo sul tosto, caro Parenzo, qui andiamo sul tosto. Lo stilista famosissimo Tom Ford ha creato un crocifisso a forma di pene. Un crocifisso è una porcheria, a forma dai. Di pene. Ma è una porcheria, lo dico io che non sono un cattolico. Un ciondolo, ma... devo dire che costa assai, altrimenti l'avrei acquistato. Ma è una porcheria, ma è vergognoso, viene insultante. Viene venduto online a $790. Il nome per esteso è Large Penis Pendant Necklace. Ma è una porcheria. È una cosa pazzesca, ma $790. Sei malato, molto malato, come osi mettere un simbolo fallico sulla croce cristiana, eccetera, eccetera. Devo dire che però... Oddio, non è un'iniziativa nuova, perché. Ma è una porcheria, si può dire che è una porcheria o no? E lo dice uno che non è cattolico, ma è tutto ciò che insulta gli altri è volgare. Oh. E questo è il punto solo. Però Benito se ti piace Modena! Vivere nel mondo in cui la gente si insulta va benissimo. Benito per me Modena, insultante, Benito e non sono Modena. Cattolico, peraltro. Vai, Benito, dimmi. Pronto? Dimmi, cara. Niente, ho sentito di quel bar lì con lo scontrino, con la faccia del duce. Uno che si chiama Benito, figurati. E io, appunto, volevo chiedervi che bar era, perché io, come ho fatto 150 chilometri andare a Predappio a salutare il mio omonimo. Bravo Pirla. Bravo Pirla. Bravo Pirla, certo, che ti devo dire? Se perdi il tempo a andare sulle tombe dei fascisti, sapete cosa ti devo quanta dire? Quanta gente va sulla tomba del Duce? Sapete, infatti, sa quanti Pirla esistono in Italia ancora? Quella merda lì che parla, mi sembra lo faccia. Sì, Parenzo, buonasera, molto lieto. Sì, Parenzo, lei, un po' sta zitto perché è una lei merda. Lei si chiama secca. Merda, non è? Piacere, Parenzo. Ecco. Ecco, allora, appunto, piacere Parenzo. Voi, il suo nome di battesimo qual è? Perché il cognome l'ho capito, ma il nome di battesimo suo? Benito. Eh sì, il cognome è merda? No, è il suo nome, lei è una merda, lei. Piacere Parenzo, qual è il suo nome di battesimo? Benito merda, no, non allora ho capito. Se devo telefonare per parlare con quell'idiota lì, metto giù. Piacere Parenzo, ma quanti cognomi ha lei? Quanti cognomi ha lei? Vi volevo chiedere a perché Parenzo, ti chiami Benito tu di nome? Chi te l'ha messo? Perché secondo te? Mio padre, che è una persona degna, sì, un medico di montagna. E vabbè, d'accordo. Era un fascista, come era fascista tuo nonno, perché tuo nonno era fascista. Sì, anche quello di Parenzo, quasi sicuramente. Vabbè, allora e allora basta, io volevo sapere il nome del bar per andare a bere un caffè da Armando, adesso ho saputo che è il bar Armando e ci andrò. Comunque, volevo farmi un quesito, secondo voi ci va più gente a visitare la tomba di Moro, di Fanfani, di Berlinguer o di Mussolini? Come? Secondo voi, ma non lo so, ma per me visitare la tomba, ma chi se ne frega, di Berlinguer, di Fanfani e di Moro? Ma probabilmente andranno la maggior parte a visitare la tomba di Mussolini, perché c'è il culto della personalità di uno che è stato dittatore dell'Italia per 20 anni, questo non c'è ma dubbio. È stato dittatore dell'Italia, guardate. Perché non c'era una dittatura, scusi. Ma senta, c'era una dittatura, ma c'era anche suo padre o suo nonno che era un fascista, perché se vabbè, ma che 38, c'entra questa, scusi, se nel 38 il 95% degli italiani erano fascisti, tutti gli italiani sono figli. Comunque di lo sai, ho capito Parenzo, ho capito Parenzo che in Italia è pieno di fascisti ancora, eh? È pieno. Beh, certo, ma è pieno scoperto. Pieno, signore, perché quest'Italia in cui viviamo, che è una fogna, sì. Roma insegna, è una fogna, sì. È veramente l'Italia che tutti i politici democratici continuano a definire l'Italia nata dalla resistenza. Come si stava bene prima, si stava meglio quando si stava peggio, dice lei. Ma molto meglio ci stava, molto meglio. Ciao Benito, ciao. Benito, non a caso, non a caso. Oh, ragazzi, comunque la notizia di oggi è questa cosa delle Olimpiadi. Cioè, l'Italia si candida, Roma si candida, sì, certo, poi adesso la condiscono dicendo che ci saranno anche le altre città, che ci sarà un'Olimpiade, come dire, no? Low cost, no, low cost, sì, un'Olimpiade in piccolo, che poi alla fine un po' rubano tutti, che un tasso di corruzione c'è in qualsiasi tipo di manifestazione, eccetera. A me, francamente, candidare Roma oggi alle Olimpiadi può sembrare un atto di coraggio, come dice Renzi, come dice il presidente Lenconi, sì. Ma pare francamente una cosa, cioè non c'è un italiano oggi che non c'è un italiano oggi che pensa che l'Italia, in particolare Roma, sia in grado di organizzare i giochi olimpici senza che questi si portino dietro una valanga di rumberie, eccetera, eccetera. Abbiamo con noi il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, buonasera. Buonasera a voi che ci ascolta. Come andiamo? È vestito o è nudo adesso? Ma sì, ad nudo, adesso non chiedo. È nuda. Giacca vento della K-Porn, industria veneta, e sono di ritorno da Padova dove c'è stato un incontro fra imprenditori italiani e alcuni ministri russi per cercare di fare un po' di lavoro. K-Porn, adesso non facciamo troppa pubblicità, però che azienda veneta. Vabbè, no, hai detto si sono vestito meno, No, perché senti la parola porn, Cruciani, K-Porn, Parenzo, avevo capito porn, avevi capito niente, come al solito, già pensavo, dai, su. Allora tu hai detto che è una follia, Matteo, no? La questione delle Olimpiadi. È una follia, ma anche se l'avessero proposta a Torino, visto che ci sono ancora i palazzoni e le piste del Bob. Cioè manco a Milano allora, ci avessero detto Milano. Ma è una follia in Italia in questo momento. Ci sono migliaia di società sportive dilettantistiche che hanno le verifiche dell'Agenzia delle Entrate, che sono quelle che tolgono i ragazzini dalla strada e li fanno giocare a pallone, a pallacanestro, a pallavolo, e noi ci stiamo a menare il torrone con le Olimpiadi quando facciamo chiudere centinaia di piccole. Meglio farle in Russia, no? Meglio farle a Mosca le Olimpiadi. Ma guarda, forse, a parte il fatto che tutte le ultime Olimpiadi sono state un debito, quindi non so quanto ci possiamo permettere un altro debito. E quindi mi sembra veramente, se è una provocazione, vabbè, può essere divertente. Ma no, che provocazione? Se lo dicono seriamente, sono preoccupato. Cioè, roba da TSO, il presidente del consiglio che parla di Olimpiadi, sì, assolutamente. Roba da chiamare due ambulanze, una per Malagò. No, per... un medico bravo, ma un medico sportivo, uno di quelli che va gratuitamente il sabato sui campi dei ragazzini. Ma non è che adesso non si fa più niente perché qualche farabutto non le Olimpiadi, cioè... dai su via, c'è un mondo sportivo in Italia che soffre, che Renzi probabilmente non conosce, e questo parla delle Olimpiadi fra 10 anni. Mi sembra tanto un'altra menata come gli 80 euro. Allora, no, devo dire la verità, Parenzo. È vero che uno non si deve fermare. Ma non facciamo più niente allora. Ma no, fine. Ma il punto chiudiamo è... Chiudiamo baracca e burattini, tutto via, chiuso, via, arrivederci, andiamo in Francia dalla Le Pen, stiamo con Putin, chiudiamo e non facciamo più niente. No, ma scusa, ma io ho sentito Marino, Roma è una città stupenda, tanti sana, anni ha detto anche sana. Ha un debito di non so quanti miliardi di euro... E proprio oggi mi sembra hanno rifinanziato il Festival del Cinema. Ora, in un momento di crisi economica, decidi qual è la priorità. In questo momento la priorità è l'Olimpiade. Io vado a Roma tutte le settimane, la priorità è coprire i buchi nelle strade, mi sembra sistemare le case popolari. Quindi se ho 2 quattrini da investire, non investo su qualcosa che forse ci sarà fra 10 anni, poi gestito, non so, dagli amici del Buzzi o di chi altri. Allora, Parenzo, il punto fondamentale sulle Olimpiadi è che in Italia è dimostrato, è vero che a Torino andò leggermente meglio, ci sono sempre stati sprechi, è dimostrato che le grandi manifestazioni, Expo comprese, perché non è che Nord sia... Il Giubileo non è vero, dite una cosa falsa. Vabbè, ma il Giubileo è diversa la cosa. Ma è il Giubileo, diverso un corno, perché il Giubileo non ci furono le opere pubbliche, sì, ci fu qualcosa. Come no? Ma che stai scherzando? Metropolitane, la stazione Termini di Roma, cioè questi eventi hanno portato soldi, benessere e turismo. Se voi poi pensate che invece tutto vada a finire a fufu, come purtroppo è stato, allora non facciamo più niente, perché poi ma ci guarda, sono i politici che rubano. Ci vorrebbe una classe dirigente diversa, non penso solo alla classe politica, penso anche a chi dirige il mondo dell'impresa, alle burocrazie, serve a livello generale, serve qualche anno per ripulire tutto quanto. Senti, quindi per qualche anno non fare niente. No, fai quello che sei in grado di fare. Adesso c'è qualche ascoltatore al di là. Io credo non ci sia oggi. L'amico di Renzi, seriamente all'ascolto, che pensa che in questa situazione economica, con questo debito pubblico, con questo livello di disoccupazione, con questo livello di corruzione, l'Italia possa organizzare le Olimpiadi. Beh, anzi, porterà lavoro e occupazione. Potrebbe portare certo, tra anni lavoro e occupazione. Il lavoro, sì, gestito dalle COP, degli amici di Parenzo, sicuramente di lavoro ne porta tanto. Purtroppo, no, c'è una bellissima ancora, immagine stupenda che forse mi metterò in camera, mi attaccherò con i 5 cerchi delle Olimpiadi. Sì, con le manette. Con le manette, con i diversi, con i diversi colori. Forse un effetto lo possono avere le Olimpiadi nell'aumento della popolazione carceraria, insomma, in questo, no? Cioè più Olimpiadi più arresti, forse più Olimpiadi più più arrestati. Tanto farebbero il quinto indulto, ne hanno già fatti quattro di indulti. Poi Renzi fa il fenomeno anticorruzione, perché il suo partito negli ultimi anni abbia votato quattro indulti e quattro svuota carceri, quindi uno più uno meno. Senti, ma mi raccontano, leggo da qualche parte, che le foto famose di cui si è parlato per 20 giorni, anche noi abbiamo praticamente fatto delle monografie sulle tue foto, i soldi di queste foto andranno a una onlus antiabortista, è così? No, sono due onlus, c'è il centro aiuto alla vita dell'ospedale Buzzi di Milano, che aiuta le mamme e i papà che per difficoltà economica non potrebbero portare avanti la gravidanza, e sono sia italiani che stranieri a portarla avanti. E quindi gli dà una mano con pannolini, vestitini. Ma no, è una onlus, si può definire una onlus antiabortista, sì. Cioè sono centro aiuto alla vita. Beh, sono contro l'aborto. Che fa nascere bambini. Contro l'aborto per motivi economici, poi ognuno è libero di scegliere della sua vita che cosa fare. Se c'è qualcuno che dice non mi posso permettere di portare avanti la gravidanza del bimbo che ho in grembo, ecco, questa gente va al di là dei giudizi, è assolutamente aiutata. E l'altra è una onlus che si chiama Cancro Primo Aiuto, che trasporta e cura gratuitamente migliaia di malati. Ecco, ma quanti soldi... Mi piace più la seconda della prima. Quanti soldi sono stati raccolti? Non ne ho la più pallida idea, perché non sono pratico di... Ma tu le compreresti le tue foto? Ma io per beneficenza l'offerta la faccio, adesso magari... ci sarà qualcuno per cui non valgono neanche 2 euro, però dimmi la verità, tu le foto di un politico mezzo nudo ma no, un uomo potrebbe essere un uomo, un cantatore, un benzinaio, non è che uno se le compra perché un uomo qualsiasi, uno se le compra perché se le compra perché magari quei 200 o 300 euro possono comprare latte in polvere per un bimbo. Vabbè, d'accordo, in questo caso sì, naturalmente non sarò bellissimo, non c'ho i muscoli, non sono abbronzato, c'ho i peli, veramente molte persone hanno apprezzato il fatto che c'hai i peli. Luxuria, per esempio, da noi ha detto che che è stupenda questa cosa. Garbi. Ma non ho mai pensato nella vita di defilarmi, onestamente, con tutto rispetto per chi lo fa, per carità di Dio. No, ma è curioso il fatto che perfino Luxuria, che non credo che tra te e Luxuria ci sia, come dire, un'intesa, qui ospita la Zanzara, ha detto: beh, devo dire la verità, non è che uno si è fatto le foto con i peli. Con i peli. No, ma guarda, uno può pensare, ma cos'è questo tizio qua che fa le foto così che può diventare il capo del governo? Posso capirli. Mi sono messo in gioco A perché mi piace ridere di me stesso, B perché quelle foto mi hanno permesso di parlare a milioni di italiani dei progetti della Lega sulla legge Fornero, sugli studi settore, sulle tasse, perché c'era anche un minimo di un minimo, spero, poi dipende se ci sarà, magari c'è qualcuno adesso che è all'ascolto, che ha qualche euro che gli avanza in tasca, se va su eBay e riusciamo ad aiutare anche due mamme e due papà, schifo non mi fa. Ma la tua compagna come l'ha presa queste foto? Diciamo che nell'ambito familiare, no? Fra le mamme, così, no. Sì, assolutamente. Era incazzata? Assolutamente. Ma diciamo che non ha apprezzato. Capisco. Preferisce vederselo nudo. Lei, scusa, ma ragiona un attimo. No, Cruciani. Torso preferisce nudo, vedersi. No, dice, preferisce. Io conosco vedere la compagna di Salvini, che è persona gradevolissima, peraltro, l'ho vista un paio di volte. Anzi, una. Ma voglio dire, sempre in occasione pubbliche, voglio dire, non tutti sono come te. Che diciamo Cruciani. Che io una foto per Parenzo torso nudo, i miei 50 euro li offro, dai. 50 euro per Parenzo torso nudo. Sei matto, sei. Poi però la regalo alla signora del bar di Cerea, Fermi tutti. No, all'ufficio mostri. C'è la pubblicità, la signora è il mio appoggio, perché viene massacrata e ognuno fa il cazzo che vuole. Vuole mettere sta cosa di Mussolini, lo mettesse. Parenzo, ci ho ripensato. Ero critico prima, ci ho ripensato. Un attimo che torniamo con Salvini. I love you. I like a virgin. Che la prova che la Lega ce l'ha duro ancora non l'abbiamo avuta. La proposta di Luxuria che facciamo? La rispediamo al mittente, Matteo? Certe cose si fanno una volta e poi basta. Cioè, lo rifaresti? Basta? No, basta. Adesso occupiamoci di cose serie come la flat tax, perché si può pagare solo il 15% di tasse in Italia. Questa è una cosa intelligente. Sì, diciamo che prima cosa intelligente. Ma no, io sono favorevolissimo da tanti anni a questa roba della flat tax. Solo che diranno che non si può fare. No, perché... Ovviamente ci vorrebbe una rivoluzione, ma è importante che uno proponga la rivoluzione. Culturale, soprattutto un cambio di impostazione. Ecco, culturale. Berlusconi. Quindi avere fiducia nel cittadino è lo Stato che ha torto, non il cittadino. Però Berlusconi come dire, si è un po' incazzato perché dice: vabbè, ma l'idea è nostra dal 94. In realtà, secondo me, non è così. Come no? Giuliano Però Urbani, il problema è applicarla. Adesso la volontà è di applicarla, non di avere le idee. D'accordo, ma di chi è? Cioè, avete un po' copiato da Berlusconi oppure Berlusconi è venuto? Noi abbiamo ospitato l'inventore della flat tax sabato a Milano, che è il professor Alvin Rabushka. Ho appena pubblicato sulla mia pagina Facebook il suo brillantissimo e documentatissimo intervento che documenta come l'Italia ne avrebbe sicuramente giovamente. Per cui Berlusconi non è né mia né di Berlusconi. Per cui Berlusconi, come al solito, ha parlato, ma in realtà poi, quando aveva la possibilità, non ha fatto nulla. Beh, che ce l'avate pure voi. Allora. No, beh, ma mi metto anch'io nel novero di quelli che non hanno fatto tutto quello che dovevano e potevano. Mica sono un verginello che arriva da Marte. Semplicemente mi propongo, con i numeri, con l'energia che abbiamo adesso, di fare quello che non si è riuscito a fare prima. Senti, allora, no, però, tornando alla cosa delle foto, tu hai detto che non lo rifaresti adesso. Cioè, che no, hai fatto. Adesso, una cosa, una volta va bene, poi già per qualcuno sarei potuto sembrare un cretino adesso. Deve farlo due volte, sarei un cretino doppio. No, vabbè, farlo due volte, d'accordo. No, basta. Basta, la curiosità c'è stata, per qualcuno, da qualcuno apprezzata, da qualcuno no, basta, adesso torniamo. Anche qualcuno che ti apprezza, ha detto, per esempio Vittorio Feltri, a me pure mi ha detto, eccetera, beh, insomma, però adesso rivesti, vai, hai fatto sta cosa qui, ma che tipo di elettori pensi di aver preso? No, ma non era un ragionamento elettorale, guarda, io sto leggendo in questi giorni analisi su come decide Salvini di mettersi le felpe, di allacciarsi le scarpe. Sì, cioè, avresti una specie di consulente, No, decido io, nel bene o nel male, può piacere o non piacere, non ho gran gusto nel vestire, però non mi alzo la mattina dicendo: ma se bevo il caffè con lo zucchero o senza zucchero perdo un voto o guadagno un voto. L'ho fatto, perché oggi è un settimanale che si rivolge a 500.000 persone che non si occupano di politica, e magari con quelle foto ho incuriosito, magari anche allontanato, però incuriosito ad appassionarsi di legge Fornero, gente che altrimenti adesso, con una foto incamiciata, incravattata, avrebbe detto: non lo leggo. Questa neanche è la tua, come dire, questa è la mia interpretazione. È anche difficile immaginare che uno si sia appassionato di una cosa sulla legge Fornero vedendo le foto. Con ma uno dice: magari compro un giornale e andiamo a vedere sto scemo a torso nudo che cosa dice. Magari dice: beh, non si presenta benissimo, però le sue idee non sono. Ma il set dov'era? Anche Putin l'ha fatta a torso nudo. Non c'era un set, ero al congresso del Front National di Marine Le Pen a Lione. Ah, l'hai fatta a Lione le foto? Sì. In albergo a Lione. Assolutamente, camera singola dove dormivo da solo. Beh, no, ma nessuno dice, per carità. Ah sì, no, perché con quello che avviene nel Front Nazionale, effettivamente, qualche dubbietto che qualche cosa, amichetto che ci sono maschio. Gay, che ci sono gay dappertutto. Il numero due del Front Nazionale, amico mio. Ma Parenzo ha dei problemi sì, con i gay Parenzo. No, io no, io no. Gli amici del Front Nazionale, sono abbastanza duri, non sotto in le coperte, fisico. Cosa c'era? Sotto le coperte, scusa, Parenzo era curioso di questa cosa. C'era qua. Le lenzuola, cosa no, ma sotto c'è con i pantaloni. Con le mutande o con i pantaloni le fate? Con i pantaloni. Perché sai, lì gli amici del fronte si eccitano con poco, mi pare, lì dentro. Devo dire che anche quantomeno danno una speranza di un'Europa diversa rispetto ai banchieri di Bruxelles. Poi possono piacere o non piacere, ma almeno esiste un'altra Europa possibile. Devo dire che anche l'accompagnatore, il segretario di Jean-Marie Le Pen mi ha sempre destato qualche sospetto. Una volta che l'ho incrociato in un albergo dove vanno anche i signori della Lega, gli amici della Lega a Strasburgo, l'ho visto, insomma, leggermente effeminato. Non so perché. Ognuno della sua vita fa quello che vuole. No, a me basta che poi non si parli di adozioni, quelle coppie gay o quelle cose lì, poi ognuno. Vabbè, quello sappiamo la tua posizione. Ma sei a Roma, no? Con la Roma, la cosa? Signora Meloni, no? Si candida magari a sindaco di Roma. Vabbè, ma tanto non si dimette Marino. Ma anche Salvini vuole come sbarcare. No, ha detto che ha risanato il bilancio. Tutti i romani, infatti, sono felici di Marino che ha risanato il bilancio e pulito la città. Ma non ci doveva essere un candidato leghista? Adesso appoggi la Meloni eventualmente per una. No, ma io dico solo che la Lega ci sarà, però piedi per terra, dobbiamo crescere, c'è tanta gente che sta chiedendo di aderire, però visto l'andazzo a Roma la gente nuova va bene, poi però vogliamo capire tutti quelli che vogliono aderire che persone sono. Senti, ma è vero che fai queste liste col tuo nome o no? Sì. Ma per quando poi? Presentiamo venerdì mattina e alle elezioni regionali che ci saranno in Puglia piuttosto che in Campania. Ce lo chiedono e per me è fatica, scommessa e rischio in più, ma lo ma che ci sarà il simbolo della Lega e con Salvini? Con... No, la Lega è e rimane al nord come Lega Nord, ci sarà questo progetto politico in tutto. No, ma come si chiamerà? Lista Salvini, che ci sarà? Te lo vengo a dire a te quando faccio la conferenza stampa venerdì. Vabbè, ho capito, ma che ne so. I tuoi colleghi mi strozzano. Salvini per il Sud, che ne so. Ci sarà il nome Salvini. Ci sarà la foto su, le foto su Oggi sarebbero eccezionali. No. Puoi fare una foto per mano col numero 2 della Le Pen. Bellissima. Dai, ma finisci. Ancora. Ma basta con sta cosa. Ma questa ossessione. No, io voglio capire. Voglio capire una cosa seria. È fermo, Parenzo. Ma io sono a favore degli omosessuali. È il Fronte Nazionale che non vuole le leggi sul riconoscimento delle unioni gay. E questa è la contraddizione. Secondo te, non voglio chiedere una cosa seria a Salvini di politica. Secondo te, nel patto del Nazareno c'è un accordo tra Renzi e Berlusconi sul Quirinale? Perché si parla di Berlusconi. L'hanno detto. Uno ha detto di no, Berlusconi ha detto di sì. Berlusconi ha detto la verità e quell'altro si è trovato in imbarazzo. Penso di averla capito io come tutti gli altri. Ma italiani. I tuoi nomi chi sono? Questo è vero. Cioè, chi ti piacerebbe presidente della Repubblica? Già ne hai fatti tre, però sono impossibili. Dai. Sono impossibili. Dai. A me piacerebbe avere un Vittorio Feltri, un Piero Ostellino. Sono quelli. Al di fuori dalla politica, che ha fatto qualcosa. Guarda, un Bernardo Caprotti con 20 anni in meno, qualche grande imprenditore. Vabbè, appunto, con 20 anni in meno. Però, diciamo, se dovessi fare il nome di un politico. Oggi Renzi ha visto Prodi per un paio d'ore. Che si sarà tu? Tu incontreresti Prodi per un paio d'ore? Tu incontreresti Prodi per un paio d'ore? Io sì. Io sì, perché gli chiederei se è pentito di averci infilato nella gabbia dell'euro. Sarei veramente curioso. Gli offro io la cena. Mi pare difficile che si sia pentito. Te la intorterebbe dicendo no, ma non potevamo fare il cambio, le cose su, giù, eccetera. Sì, il cambio, Ma Prodi presidente della Repubblica sarebbe per voi la cosa peggiore in assoluto? Beh, non male invece. Guarda, se la gioca con Amato, non so se sarebbe peggio Prodi o Amato, però sicuramente a quel punto lì. Con Prodi? A quel punto lì, che succede? Con Prodi, basta. Come l'ascoltatore diceva, l'Italia porta dietro in tribunale. Già se fossimo un'azienda privata saremmo falliti. Stiamo cercando di. Ma con Prodi che fate? Con Prodi, Prodi ma sarebbe la pietra tombale, dai. Sarebbe la pietra tombale. Proveremmo a impedire democraticamente e fisicamente in ogni maniera fisicamente l'arrivo al colle fisicamente mi stendo io davanti ai banchi ai banchi no perché non ci sei più ha fatto abbastanza danni stenditi davanti al Quirinale danni. Che ne so al Quirinale va bene. Senti, ma allora una cosa sui soldi dalla Russia, no? Perché se ne è parlato sui rubli zero. No, zero, che vero, no, zero. Ho capito, però tu hai detto che non lo rifiuteresti, zero. D'accordo? No, attenzione, un conto è il finanziamento pubblico, privato, trasparente, cioè l'imprenditore adesso che ci sta ascoltando, che è convinto delle nostre battaglie e ci dà 100, 500, 100.000 euro, gli rilasciamo regolare. Vabbè, d'accordo. E buonanotte al secchio. Ma e questo può essere russo, può essere finlandese, schimese, polacco... milanese. Vabbè, questo è come io vado in Russia a chiedere soldi è una baggianata con no beh d'accordo ma se qualcuno se Putin volesse darti dei soldi ma perché Putin adesso Putin dai soldi a Matteo o imprenditori vicini a Putin che ne sai o anche imprenditori vicini a Cruciani perché no convinti del progetto per un'altra Europa, del fatto che le sanzioni contro la Russia siano una cazzata epocale, dannosa e costosa. Se qualcuno vuole sostenere questa azione politica ci sono, ma oggi le casse ce l'avete vuote le casse? Sì, è rimasto ce l'avete vuote, siete costretti a licenziare un po' di persone. È rimasto pochino, abbiamo chiesto un ulteriore sacrificio a tutti i nostri quanto avete adesso in cassa materialmente? Non lo so, non sono il responsabile amministrativo, che è un ragazzo di cui mi strafido, non ne ho la più pallida idea, però stiamo gestendo al centesimo tutto quello che però c'è. Di una cosa devo dire la verità, tu eri partito che volevi fare il sindaco di Milano, adesso questa cosa te la sei completamente dimenticata, no, questa cosa del sindaco no di io continuo ad averlo come sogno. Non so quando realizzarlo. No, a me piacerebbe. La cosa più bella, penso, per uno che ha la passione politica, è poter fare qualcosa per la propria città. Hai detto che ormai è una cosa un po' troppo piccola, non so, in un'intervista. No, Milano è la cosa più grande del mondo, dal mio punto di vista. Detto questo, se ci fossero elezioni anticipate in primavera e dovessimo giocarci la battaglia contro Renzi, è chiaro che non posso fare due cose incompatibili l'una con l'altra. però Milano era, è e rimane nel mio cuore, questo non so quando, e non so, dipenderà dai milanesi ovviamente. No, beh, d'accordo, però se le elezioni sono quando devono essere, se non ci fossero altre elezioni prima, a me piacerebbe candidarti, assolutamente, perché Milano si parla anche di lupi nel centrodestra, di lupi NCD, sì, va bene. Sceglieranno i milanesi. Ecco, quello che non ha capito Berlusconi è che non è più il periodo dell'imposizione, della scelta di Tizio e di Caio, sono gli italiani, i milanesi a scegliere chi sia il candidato. Parenzo, un'ultima cosa è questa: i Rom, no? La questione Rom, perché con Parenzo ogni tanto discutiamo, litighiamo. Salvini dovrebbe ringraziare Buzzi e Carminati. Cioè Dovresti ringraziare, sì, un po' li devi ringraziare, Buzzi grazie e Carminati. Loro. Perché un po' di consensi in più, Buzzi e Carminati, no? Come no? Dai, un po' sì. Ma no, io conto di prendere i voti per le mie idee, non per gli errori degli altri. Che poi la stragrande maggioranza del presente Rom in Italia siano improduttive, questo non lo decide Salvini, ma lo testimoniano. Ma secondo te i Rom sono un po', come dire, loro, cioè, tendono a rubare? No, non i Rom, troppi Rom, sì. E dunque hanno qualcosa, hanno qualcosa. Milanisti, no, però hanno qualcosa. Hanno qualcosa. No, se mi vuoi far dire che c'hanno nel DNA che sono ladri. Ma non nel DNA, non nel DNA. Ci sono troppi Rom che rubano e che campano a sbafo rispetto alla collettività. Questo sì, troppi. Questo perché? Per una questione culturale? No, ma anche per scemenza nostra, che glielo permettiamo, cioè, da la russa tempo. Qui da noi ha detto che sono culturalmente ladri i Rom. No, no, questa secondo me è una sciocchezza. Ma sono recuperabili? Sono recuperabili? C'è qualche Rom che lavora, pochissimi. Ma io chiuderei tutti i campi Rom, dove amministriamo lo stiamo facendo, come a Verona, e poi i diritti e doveri di tutti gli altri. Che e quello, quello sono d'accordo. Che sono delinquenti è evidente. Ma sono recuperabili secondo te, oppure se vivono una vita a parte e non sono recuperabili? No, diciamo, secondo me se gli dai delle regole chiare qualcuno lo recuperi, qualcuno. Gli altri li saluti e li rimandi da dove sono arrivati. E se sono italiani gli chiedi di rispettare i doveri di tutti gli altri italiani. Va bene, ciao, a presto. Saluti. Ciao. Saluti. Buon lavoro, mi raccomando, mantenete sempre il vostro frufru, Diciamo che io una foto per Parenzo torso nudo, i miei 50 euro li offro, dai. Cioè l'ha detto quasi disprezzando Parenzo, 50 euro per una tua foto, così, vabbè, i miei 50 euro per una foto torso nudo di Parenzo li sì, metto, questo dai. Questo lo posso capire. Ma non è nemmeno attaccato, dovevi attaccare. Attacco, stava scherzando, riconosco l'ironia quando c'è chi attacca. Roberto da Roma, Roberto. Scherzava. Vai Roberto, dimmi, vai. Ascolti, volevo chiedere a Parenzo, visto che sei così tanto indignato prima quando si parlava di quella signora che ha messo la foto del Duce sul scontrino, se avesse messo una foto di Lenin o di Marx, magari con una bella falce e martello, sarebbe stato più felice o meno indignato? Di Lenin o di Marx, ma l'avrei considerata una mattana, ma che per la storia italiana non è priva di sangue, quindi è priva di sangue, quindi non... Come priva di sangue per la storia italiana? Per la storia italiana, Stalin, ma che vuol dire Stalin? Per la italiana, vogliamo dire anche Tito? Sì, ma li trovo dei criminali, va benissimo, ma non... Ma ci sono degli amici di... Ma l'avrei trovato una mattana. No, ci sono degli amici, Parenzo, di Casa Pound che ti hanno scritto qualcosa nel frattempo, no? Sì, sì, ho risposto anche via Twitter. Gli amici di Casa Pound, Roberto, vai Roberto, che stavi dicendo? Questo stavo dicendo, se a lui gli avesse dato meno fastidio vedere certe altre facce, piuttosto che ogni volta che si parla del Duce o di ciò che... io non sto giustificando determinati atti che comunque sì, l'avrei considerata una mattana, ecco, una cosa abbastanza folle fuori da me. Quindi la stessa cosa, ok. Vabbè, fammi un effetto. Comunque, su una cosa, sì, Parenzo ha ragione. Fammi un effetto la foto, cioè, di Stalin rispetto alla foto di Mussolini. Per una Stalin ragione è stato dittatore dell'Unione Sovietica. Se in Russia, guardi. È stato identificato in questo modo. Ripeto, no, non ma le faccio prendendo un esempio. Prego. La stessa cosa, ad esempio, fatta in Germania con Hitler, avrebbe provocato delle sanzioni gravissime, perché i tedeschi hanno fatto il conto con quella storia. Quindi non è possibile in Germania vendere pubblicamente per quale motivo, dei. Glielo spiego. È impossibile in Germania a vendere dei gadget di Hitler, ad esempio. Ma poi non piacervi la Germania, benissimo, a me piace quel modello là. Hanno fatto i conti con quella storia, vendere i gadget del Terzo Reich in Germania pubblicamente è considerato un reato. va bene? Io trovo mi tutto questo una grande puttana. Tu perché tu sei un ravanatore di fogne, ma va benissimo. Ma che c'entra il ravanatore di fogne con questa roba qua? Fogne, ma non c'entra ma niente, perché considero alcune cose sono superate, basta. Nulla. Non c'è sono nulla superate, di superato. Sono superate, ma diglielo ai tedeschi, diglielo ai tedeschi. Vabbè, ma sono superate queste e cose, basta. Sono superate. Infatti per me, ma non c'entra niente il ravanatore di quel paese. Ma non c'entra niente il ravanatore di fogne, non c'entra un cazzo, è un'idea, capito? Non è che se uno esprime un'idea ravana le fogne, non c'entra niente. Idea, dipende anche, quale no, idea. Questa idea non questa tutte idea. Le idee hanno la stessa dignità per ma me ma che c'entra questa io ho l'idea scusa abbi pazienza ma io sto... non è che si può dire che no. È tutto uguale se io tutte sto le idee dicendo sono semplicemente no ma non io sto sempre. Dicendo semplicemente che secondo me quest'idea è superata non è superato proprio nulla questa roba ma secondo me ma è superata ma non è che per questo ravano le foglie che cazzo dici in Germania perché in Germania ho capito ma posso considerare questa cosa superata o no secondo me semplicemente perché hai il gusto dell'orrido ma voglio dire ma che c'entra il gusto dell'orrido non c'entra niente, è un'idea come un'altra, Sebastiano. Ma non è un'idea, Milano, le idee non sono tutte va uguali. Bene, d'accordo, Sebastiano Milano. Allora il gusto dell'orido, benissimo. Beh, Sebastiano, sì. Sebastiano Milano. Tanto solo le tue idee sono nobili, sono snob, no, sono le più pure, cioè, le altre sono l'orrido, lo schifo, la mettere... merda, la fogna. Beh, alcune cose sì, Sebastiano per me sono Milano, la fogna, per cui a me alcune cose mi fanno orrore. Sì, oh, ma non c'è niente, ma anche a mi me fanno orrore perché un sacco mi fanno di cose. Orrore, mi indignano, ma voglio dire, bene, poi sai, Sebastiano, sarò antico, vai. Pronto? Sarò monotono. Ecco, buonasera, volevo dire che il gioco delle parti va benissimo, cioè nel senso che Cruciani, tu giustamente fai il liberale di destra, no? Radicale di destra. Vabbè, dai, non farci nessuno. No, no, ma però voglio dire, adesso, la cosa che mi dà un po' fastidio, invece, è questa cosa pericolosissima che ha detto Parenzo decine di minuti fa, cioè di mandare no, un corpo dello Stato perché una persona ha un'idea sì, diversa un della sua. Un controllino, piccolo ma non, controllino. Ma direi sì. Che utilizzare... Non lo manderei sono, mai io, Sì, ma utilizzare comunque quelle sì, che sono ma... le forze dell'ordine per scopi sì. Politici no, mi sembra assolutamente politico. Di destra, mi vediamo, sembra. Ecco, no, volevo cioè, dire questo, un controllino, la gente un controllino. È già arrabbiata. Giustamente si fanno i controlli nei ristoranti cinesi, si fanno i controlli nei dai prima verificare se questo locale ha effettivamente bisogno di un controllo del NAS e poi dire intanto. Se fosse una persona diciamo così anche civile no? Dire vabbè questo ristorante secondo questo bar ha necessità di avere ma poi ormai c'è di tutto in Italia avere, ma in Italia c'è di tutto c'è un ristorante che si chiama il federale cioè, non c'è ma qualsiasi cosa che lo può fare ridere perché io poi sono socialista riformista alla Rosselli tanto qui non so se vuoi alla Carlo Rosselli. Allora, le cose invece che vengono utilizzate per fini ideologici, come utilizzano spesso questi trinariciuti della sinistra estrema, ecco a me danno molto fastidio. Mi sta noi, citando il socialismo liberale di Rosselli, vabbè, a me. Carlo Rosselli lei lo conosce? Ma non scherza, so lo conosce. Allora, il socialismo liberale di Rosselli. Che vuol dire, ragazzi, dai. Vuol dire che si utilizza uno strumento dello Stato no, per fini politici e questo è di destra come può essere di estrema sinistra. Vabbè. Poi vediamo. No, ma questo è in realtà no, è Sebastiano, un però scusa, negativo. Cerchiamo di riassumere bene perché altrimenti ma è un andiamo. Segnale molto negativo che diamo qual agli è il punto? Qual è la contestazione? Il punto è che allora è proprio un modello che Parenzo comunque che provoca tutte le sere ovviamente perché sono e quale modello è? Quale modello è? Un modello che è coloro che appartengono ad una certa sinistra che è quella del salottiere e quant'altro. Ma io sono hanno molto la possibilità radicale, di mandare giudici, di mandare corpi dello Stato a fare verifiche a destra e manca perché hanno delle aderenze e questo nessuna aderenza ormai e beh però io ho detto solo che un controllino non mi dispiacerebbe così però un controllo non mi dispiacerebbe però insomma ormai sei ai controllini ogni tanto li fanno i controllini così blitz si capisce bene quello che li fanno ogni tanto beh sì se non si può è evidente non può utilizzare cioè va bene Sebastiano abbiamo capito e io sono d'accordo con lei. Parenzo, ti ho chiamato una persona. È una persona speciale questa sera, eh? Una persona speciale. Un grande attore, un grande attore. Un grande attore, soprattutto teatrale. Un grande attore teatrale. Beh, Paolo Poli sarà grandissimo. No, Paolo Poli. Che c'entra Paolo Poli? Beh, grande attore. Glauco Mauri, un grandissimo attore teatrale. No, Leopoldo bene. Mastelloni, buonasera. Ah, grazie, buonasera. Come stai? Glauco Mauri né. Paolo Poli. E infatti sei Leopoldo Bastelloni. Come va? Come stai? Uguale, bene, uguale. Va bene, va bene. Che va stai bene, facendo in questo bene. Periodo? In questo periodo ho finito di recitare a Napoli, al Teatro San Nazzaro, un classico napoletano con sì. la compagnia Luisa Conte, Annella di Porta Capuana, e poi sento la radio e vedo la TV, ecco, quello che fanno tutti gli italiani. E che vedi in TV? C'è qualcosa che ti piace o ti fa tutta schifo la televisione? Chi comanda in TV? Chi comanda? Dimmi la verità, qui si dice la verità, prima dimmi che cosa ti piace. Gli sponsor comandano su tutto, anche sulle previsioni del tempo. E vabbè, quello la pubblicità dici, comanda su... La pubblicità, se non gli sta bene un conduttore o un attore, non funziona. Ma esistono allora le mafie in televisione? Ma più che mafie ci sono i clan, che sono molto stretti. Interessante, i clan. Sono stretti, per cui c'è un clan che non fa entrare nessuno, sono clan ristretti soprattutto per la paura di perdere il lavoro, non c'è più quella concorrenza che tu dici, ah, quello è bravo, facciamo una cosa insieme, no, per carità. E quanti ce ne sono di clan? È tutto un clan. E il clan comunque... ti tiene fuori? I clan ti tengono o ti hanno tenuto fuori? No, il clan non è che mi tiene fuori, il clan non permette né a me né ad altri che non stanno nel clan, siccome io sono una persona indipendente e non farei mai amicizia con una persona solo perché mi può servire, per cui non me ne frega niente se uno mi sta antipatico oppure... Lo dici? Non cerco di blandire la cosa ed essere amico di una persona. Senti, ma come si vive a Napoli a proposito? Perché tu a te ti hanno pure rubato dentro casa qualche tempo fa. Ah, vabbè, sì. Ma io soprattutto mi sento romano. Perché la mia formazione di vita da 18 anni ho vissuto a Roma, per cui... Ma a Napoli Roma quanto ci stai? Ma secondo, ci vado però più... non so come dirti, per il teatro sì, ci vado. Però vivere proprio a Napoli è impossibile. No, vivere a Napoli non è che è impossibile, non mi riguarda più, non so come dirti. È un percorso, si può dire che è un percorso di guerra a stare a Napoli, vivere a Napoli? Ah, vabbè, da un punto di vista sociale è un percorso di guerra molto più che in altre città, perché Napoli, essendo una città piccola, è molto dominata da tutto quello che è la provincia, per cui Napoli è affollata più di gente della provincia, non è che sia un male. Eh beh, come tu lo dipingi come un male, come una roba inquinante? No, male, non ci vivi, no, ti spiego, perché quelli della provincia non si comportano bene quando vengono a Napoli, allora tutto è permesso. Ma è una città pericolosa, cioè una città dove uno deve avere paura a campare, secondo te, almeno da quello che uno legge, no? Sì, un po' sì. Sì, ci sono Napoli è pericolosa perché non ci sono le zone malfamate, ci sono infiltrazioni di ogni genere, perché è malfamata tutta la città. È tutta malfamata. Comunque sì, non ci torneresti ad abitare. Io ci abito, no, ma non ci torneresti ad abitare, diciamo. Ma no, ma soprattutto stabile. non ci tornerei per un'altra ragione, perché a Napoli non esiste una vita artistica, diciamo, internazionale. A sto sindaco, che voto dai a sto sindaco? Ma non lo conosco, per quanto mi riguarda gli posso dare zero, perché non zero nel senso di assenza totale, non ti sembra governata la città? No, è sempre peggio, c'è una strafottenza sociale a Napoli che avrebbe bisogno dell'esercito per essere qualcuno diceva, chi è che diceva, Parenzo, qui da noi il sociologo De Masi. Diceva, che è napoletano e che conosco bene, esatto, minimo. De Masi diceva che qui non ci, nemmeno se si mettono insieme Obama, la Merkel o sì, non sì. so chi sì, riesce... sì, è vero. No, ma soprattutto perché si fa di un'erba un fascio, cioè no, a Napoli non si osserva nessun tipo di regola, quello che fa comodo alla persona è la legge, non esiste la legge per tutti, c'è poco rispetto per gli altri. Ma Salvini ce la farebbe a salvare Napoli, secondo te? Adesso è l'astro nascente della politica italiana, ti piace la Lega? Sì, ma Salvini dice delle cose giustissime, cioè? Come, ma non giusto? Solo su Napoli. No, lui quando fa delle osservazioni sono perfette, socialmente parlando e anche legislativamente parlando, mi pare la persona più a parlare, la persona cioè, più lo giusta. Voteresti in questo momento? Ah sì, senz'altro, senza pensare Lega, non Lega. Quello che dice è perfetto, bisogna vedere se poi bisogna sempre vedere se si riesce a mettere in atto, perché lui fa un'analisi. Cioè, per esempio, anche sui campi rom, tu non li smantelleresti dal primo all'ultimo, come me, per esempio. No, io gli darei la dignità di un campo, perché non una casa più che altro. No, io gli darei la posizione che meritano, però sempre privilegiando quello che è il cittadino italiano. Poi dopo noi non pensiamo mai all'italiano, non pensiamo mai, cioè, pensiamo più agli immigrati che agli italiani. Sì, è più seguita, sono più seguiti gli immigrati che i regolari, che i cittadini veri e propri. Infatti i cittadini veri e propri, specialmente in questo momento con Renzi, sono oberati di tasse assurde, cioè noi non possiamo mantenere lo Stato. Si dice di solito che lo Stato poi provvede e fa vedere, invece lo Stato non assiste, lo Stato vuole essere assistito da noi cittadini. Qualsiasi bisogna affamare la bestia, affamare la bestia che è lo Stato, togliere risorse allo Stato. Fermi tutti, torniamo tra poco con Leopoldo Mastelloni che ci dice la sua su un matrimonio gay e dintorni dopo la pubblicità. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti prego, Prezzo, senti questa prostituta che è stata intervistata in un'inchiesta di Repubblica. Sì. Potete vederla su repubblica.it, un'inchiesta in cui si dimostra che ci sono moltissime prostitute che fanno questo mestiere semplicemente perché si guadagna di più, perché lo vogliono fare, eccetera, eccetera. E si dichiarano anche vittime dello Stato, non del loro lavoro, perché non possono pagare le tasse, eccetera, eccetera. Senti questa cosa, i clienti mi chiedono... Che cosa ti chiedono i clienti? Solitamente tutto ciò che non fanno con le loro mogli, con le loro amanti, con le loro fidanzate, cose un po' più proibite e un po' più particolari. Io mi travesto anche, faccio dei giochi di ruolo, mi posso travestire da suora, da infermiera, da dottoressa, da avvocato, qualsiasi ruolo va bene, me le si mando nella parte. Cioè, non bisogna sottovalutare, caro Parenzo, il valore sociale di queste cose. Cioè, non sto scherzando. C'è un valore sociale. Ho mai criticato questa roba. Ma prendiamola seriamente: un valore sociale nel lavoro della prostituta. Non c'è dubbio. Che non bisogna assolutamente sottovalutare. Giusto, Mastelloni? Adesso uno può giocare. No, io non riesco a capire perché le mogli poi non fanno quello che fanno le prostitute. Perché fare l'amore è ampio raggio di scelta. Allora, lo so, però succede che se poi... la moglie non si traveste da suora, se il marito c'ha questo pallino qua, vestito da suora, così il matrimonio va meglio. È vero. E risparmi pure i soldi, no? Però sa, c'è anche gli una... fai un bel regalino, gli regali quello che regali alla prostituta, lo regali alla moglie, e perché chiaramente ogni uomo ha una sua fantasia erotica, no? Tutto questo nel matrimonio perfetto dovrebbe essere e lo normale, so, però poi spesso c'è voglia di cambiare, di diversità, la cosa nuova, la cosa nuova. Ma l'idea che un'ora prima c'è stato un altro uomo e poi ci sei tu, mi pare già una cosa che è abbastanza poco eccitante. Ma tu sei un uomo fedele, nelle tue storie? Se amo, sì, sono fedele. Amo, se, chi ama deve essere fedele, perché altrimenti è un'avventura e va benissimo. Allora vuoi fare una vita d'avventura e va benissimo, però se tu dai un... Cioè, quando sei stato con qualcuno, tu di solito sei uno refrattario alle relazioni, diciamo, no? Alle relazioni zero. Vabbè, è una scelta, però è una scelta. Cioè, non sei stato fidanzato al massimo per quanto? Con un uomo, quanto? Ma manco un giorno. Sei stato fidanzato? Ma manco un'ora, per carità. Ma non esiste. Esiste l'avventura erotica e quella, vabbè, la carne è carne, però, come si dice, no? Però se hai un legame, la carne non è carne. Se hai un legame, io sono per la fedeltà e soprattutto per il non tradimento. Questo, sono molto rigoroso su questo, che se ne possa pensare. E il matrimonio omosessuale è una follia? Cioè, tutta assolutamente. Questa. Uno fa tanto per non sposarsi, se la sposa pure fra uomini o fra donne. Mi ma scusami, invece eppure, sai, la comunità... Che ci sia un legame forte, più tenace, non c'è bisogno del matrimonio, c'è bisogno semplicemente di una parola, di un'intesa, e non c'è bisogno del cosiddetto sacramento. Poi un sacramento cattolico, in un paese cattolico viene permesso, come pretendere di andare in bikini su una spiaggia di un paese dell'Islam, non ci vai, oppure ti trasferisci in un paese dove te ne vai in Olanda e puoi fare quello che vuoi, però se sei italiano e ti piace vivere in Italia, ti piacciono gli italiani, ti piacciono le leggi, ti piace la città, è un paese cattolico, devi osservare le regole cattoliche. Per quanto riguarda le regole, voglio dire, no, ma ho capito, però tutti parlano, sai, dei diritti, dei diritti di successione. I diritti sono sacrosanti per tutti, sì, quello, su quello sono d'accordissimo, ma non c'è bisogno del matrimonio per avere questi diritti. Per non parlare dell'adozione, allora. L'adozione è uguale, meglio un bambino adottato da persone per bene, chiaramente, che possono creare un avvenire al bambino. Cioè, per cui sei d'accordo per l'adozione, che ne so, di due uomini e due donne, invece che lasciarli in un orfanotrofio? Io sono anche per l'adozione di una persona singola, tipo Dalila di Lazzaro, che ha perso il figlio di 19 anni, voleva un altro figlio e non gliel'hanno dato perché era singola. Oppure è peggiore per il fatto che uno poi si deve creare un legame fittizio per avere un bambino, per adottare un bambino. I bambini vanno adottati, vanno portati in una casa, che poi la casa sia gestita da due uomini, due donne, una donna solo, un uomo solo, è sempre meglio che restare in un orfanotrofio e poi alla maggiore età essere buttato per la strada. Ma tu lo sai, Parenzo, che Mastelloni è entrato in questa consulta, non so di che, di Forza Italia, che cos'è che sei entrato? Ma io non sono entrato in nessuna consulta, vado a sentire quello che dicono le persone che hanno... No, ho letto da qualche parte che eri entrato a far parte della cosa della cultura, là, come si chiama? Fa il giornalista e lo sa, no, non è vero, è assolutamente smentisco. Perché smentisci? Totalmente. Totalmente, né comunista né democratico, né... Ho una grande stima di Berlusconi, quello sì, è fuori discussione, però non c'entra niente. Dunque anche questa svolta a favore dei gay un po' la approvi di Berlusca? No, ma credo che Berlusca l'abbia sempre avuta questa svolta. Solo che poi andava a braccetto con la Chiesa, prima andava un po' a braccetto col Vaticano, sai. Ma mo però c'è stato pure un Papa un poco più rigoroso da una parte e molto più aperto da altri. Però io non so perché questa ghettizzazione, se uno è gay, fa lui, non vedo perché deve andare a dire sono un culattone. Per cui per esempio il Gay Pride tu non la puoi vedere? Ma per carità, ma quello è... come autocertificare una diversità che non esiste. Cioè, per esempio, il tuo essere omosessuale tu non l'hai mai sbandierato, no? Io non so manco se tu l'hai mai dichiarato in realtà o no. Ma perché dovrei dichiarare che cosa faccio a letto, oltretutto quando facevo qualcosa? Vabbè, a letto. Adesso voglio dire, adesso non ci pigliamo, non ci, quando ma facevi adesso. Io non ho mai, ma tu lo dici quello che fai. Vabbè, ma certo. È una sfera privata. Ma io l'ho detto in realtà, purtroppo l'ho detto. Io ti dico tutto questo non deve avere nessuna importanza su quelli che sono i diritti di un cittadino. Vabbè, ma d'accordo, però uno può dire tranquillamente sono omosessuale, non è che è strana sta cosa. Ma lo deve dire? Oggi in questo momento penso che sia assolutamente negativo, perché diventa ti si incanala in una, come dire, io sono un attore drammatico. L'attore può fare il comico, il drammatico, secondo le sue possibilità, voglio dire. Il fatto dell'omosessualità non deve assolutamente... Vabbè, però che a te piacciono gli uomini, non è che c'è dubbio su questo. Ma questo l'avete detto voi, io vi dico ok, se ti sono come te, voi, dice Pirandello, no? non è assolutamente... Così è, se mi pare. Vabbè, ma sto scherzando, a me non me ne frega niente, ognuno può fare quello che vuole. No, più che altro mi preoccupa quello che hai detto... Però domandi. Domando, per forza che domando. Hai una deviazione, Io sono un po'... No, ma il sesso un po' mi attira, il modo in cui le persone parlano. E allora sei represso? No, represso, perché... non esageriamo. No, hai delle repressioni, perché se no non ti frega niente di quello che fa il mio vicino o quello. Ma che tu stesso prima hai detto sesso ormai tanto che devo fare? Cioè, tu l'hai detto prima. A parte il fatto che ho 70 anni, ma anche a 70 anni che a 70 anni che fa uno ha finito tutto. Beh, c'è la pace dei sensi solo, che pace dei sensi. Lui non se ne fa una ragione. Gli altri millantano. Dici che millantano, Ma è naturale che uno a 70 anni abbia meno focosità di una persona di 40 o di 50, è la natura. La natura. a 70 anni non puoi correre dietro l'autobus, se no ti pigli l'autobus e poi ti viene un coccolone nell'autobus. Allora tanto vale aspettare la fermata, il prossimo che passa. Dai, non diciamo sciocchezze. Senti, sennò... ti saluto e ti abbraccio. Ciao, presto, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Paolo da Udine è intervenuto la settimana scorsa contro Carlo Taormina. Da sui nervi. Beh, è venuto fuori un duetto pazzesco. L'ascoltatore Paolo da Udine contro Taormina. Paolo da Udine, che vuoi? Paolo da Udine è sempre qui in collegamento. È uno che interviene sempre. Paolo da Udine. È un cretino, secondo me. Buonasera. Che vuoi, Paolo? Dimmi. No, sento. È un cretino questo. Sento. No, cretino sarai te, Parenzo. Adesso non andiamo su ste cose. Mi innervosisce solo la voce. Comunque sto zitto. Guarda, mi innervosisce solo la voce di questo. Ma stai tranquillo. La figura dell'avvocato Taormina. Fa ridere un casino, mi diverte, perché è straordinario l'avvocato, dopo i danni che ha fatto lì a Cogne, adesso abbia il senso dell'umorismo, grande senso dell'umorismo, di parlare anche di sta storia di Ragusa. Ma si faccia una passeggiatina, si prenda una cioccolatina a casa. Ma le posso dire una cosa? Quali sono stati i danni di Cogne? Quali sono stati i danni di Cogne? Una donna che si è colpevole è stata condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio. A lei pare che sia un risultato negativo? Io credo che sia un risultato molto positivo. Quindi che cazzo dice lei? Non sa nemmeno dove si... No, io so benissimo. Sta dicendo un fatto di pregnacce. Ho letto che vuole anche i soldi dalla Franzoni, ma è lui che dovrebbe pagarla, risarcirle i danni che le ha fatto. Se ne vada a quel paese, faccia un altro mestiere, piuttosto che io mi immagino un'altra cosa. Aspetta, professore, aspetta. Fermi. Senza che cosa dice. Va bene, Paolo, basta. Con la Roma com'è che andiamo? Tutto bene? Io seguo soltanto il calcio ad alti livelli, dalla Roma proprio me ne frego. Però quando Nasri ha depositato la palla in gol, devo dire che... Ma che c'entra la Roma? Ma è la voce, è anche la voce di sto Paolo da Udine che dà i nervi a me. L'avvocato è sempre così preso anche dalle storie, dalla Juventus. Ma lei non sta più niente da fare che rompere i coglioni a me. Ma anche lei non ha nient'altro da fare. Maurizio Campobasso. Sì, buonasera a tutti, buonasera Luciani, Parenzo. Io penso una cosa, volevo dire questo, che non c'è peggior cieco e sordo di chi non vuole vedere e sentire. Mi riferisco in questo caso a... c'è una novità, Parenzo. C'è Paolo Barnard, già ospite della gabbia. Ho visto, anche nostro più volte, che ha messo su Facebook il suo pene, cioè si è denudato, non come Salvini a metà, ma lui non ha inquadrato né la faccia né il petto, ma solamente il pisello, cioè si è tirato fuori il pisello e si è fatto una foto devo dire che e l'ha messa su Facebook. Devo dire che i primi a segnalare questo fatto sono stati i tuoi amici del Riccardo, qual è il problema? Non l'ho capito. Fan club, che prima di tutti gli altri, bisogna dar merito, hanno monitorato evidentemente, attenti ai particolari legati al pene del signor Barnard. Questi amici fanulloni sono stati i primi a taggare, come si dice, la foto di questo personaggio. Aspetta un attimo. Pronto? Oh, sì. Tonon? Che vuoi? M'hai chiamato prima? Che c'è? Che devi dire? Che in Roma, ma lo dice Ceronetti. Cosa? Che sono tutti dei ladri. Ma dai, Fabrizio, dai, su. Ma che vuol dire che sono tutti dei ladri? Pure tu ti ci metti, che c'è? Come Fabrizio? Raffaello? Sì, Raffaello, sì, scusami. Fabrizio di che cosa? No, allora... Cos'ha la voce? Che non lo so, che c'è. Lo dice Ceronetti, per l'amor di Dio. Lo dice Ceronetti. Sì, adesso sono tutti ladri, secondo te, tutti ladri. No, secondo me è nella loro indole essere ladri. Andiamo. Eccolo qua. Ma andiamo dove? Andiamo ma dove? Dici pure Ceronetti. Ma cosa me ne frega di Ceronetti a me? Ma non ho capito. Ma ti pare? Ma Ceronetti lo scrive su Repubblica. Signor Raffaello, amico mio, mi stai simpaticissimo. Vedi dei meravigliosi tappeti. Va tutto molto bene. Meravigliare. Ma lo ma tu leggi Repubblica? Dovresti leggere come pane quotidiano dopo il fatto. Senti, vendi i tappeti per cortesia e va bene. Devo vendere o i le creme per le emorroidi e tutto quello che serve. Ma infatti va benissimo, amico mio. Vendi tutto quello che c'è da vendere. Ma pontifica vendo, ma su quello che ma sui rom non avventurarti in cose. E che cazzo, andiamo. Voglio dire Tonò, adesso arriva anche Tonò e mi spiega le politiche dei migranti. Ai piedi incredibile. Per terra, Parenzo, tu sei il classico radical chic che vive chissà dove. Sentimi, chiaro. Tesoro mio, torna nel tubo catodico a vendere andiamo. Tappeti e cremine per le emorroidi. Ma poi per carità, per non è che ma si può intervenire su tutto sempre, porca miseria, roba incredibile. Adesso arriva, si sveglia Tonò, Raffaello, Tonò, chiamando al messaggino, interviene sui rom. Ragazzi, certo, c'è delle regole della vita, amico mio. Perché conosco Cruciani, che è una persona perché ti avrà comprato le cremine per le emorroidi e quindi dice, vabbè, allora facciamolo intervenire sui rom. Ma io non lo so, roba incredibile. Ma perché vendi... Quando ancora no, aspetta non un attimo, aspetta arie. Un attimo. Comunque, ti invitavo ad Iceberg sicuramente perché sei un personaggio televisivo simpatico. Ma la Repubblica di Ceronetti che vabbè, dice: abbiamo capito. Ragazzi, Ceronetti dice che non si può pretendere dalla razza rom, che lui dice torniamo rom. A chiamare Zingari, e ha ragione, che non rubino, perché nel loro DNA è come dire che un'ape non voli. Ragazzi, non lo sto dicendo io, lo dice Ceronetti. Io vendo i tappeti e le pentole, Ceronetti no. Allora, beh, con questo però ti ha fregato un po'. Che compra Repubblica, che si ritagliasse i pezzi di giornale, anche quelli che gli articoli che non fanno comodo. Grazie, dicendo. Grazie Raffaello, grazie, ciao. Grazie moltissime. No, però devo dire la verità, grazie. Vero che Ceronetti, adesso andiamo a vedere bene cosa ha scritto, perché questo era il riassunto di... Va bene, ma d'accordo, ti prego. Carlo, provincia di Roma. Vai Carlo. Niente, vabbè, la tua trasmissione è sbagliato il canale perché non quello della Confindustria, ma questo è un altro discorso. Beh, ma che c'entra, scusa, non ho capito. Che c'entra perché quel farmacista mancato, lì non se ne può più. Ma chi è il farmacista una mancato? Perché è un farmacista mancato? Vogliamo sapere chi è Parenzo. Farmacista? Che c'entra i farmacisti? Scusa. Chiunque non la pensa come lui, subito insulta. Però poi prima ha detto una cosa che bisogna punire chi insulta gli altri. Cioè, voglio dire, questo è il classico esempio di non democrazia. Cioè, perché lui è il primo che insulta. Quando è che insulta, scusa? È lui. Vabbè, insulta subito. Ogni tanto. Ma infatti, secondo me, lui sta esagerando, no, perché ogni volta invoca i tribunali, i giudici, le querele, i NASO, non so che cosa. Tutti adesso, guerra tutte e tutti. Sai cazzo, frega la gente di guerra tutte e tutti. Luciano, io ho grandissima stima di te perché hai lanciato una trasmissione favolosa che ha sbagliato il canale. Solo che la Confindustria purtroppo non ha molte aziende iscritte, quindi che in qualche modo deve recuperare. Ma va benissimo. Ma che vuol dire? Scusa, non ho capito. Ma è perché c'è la crisi, le industrie pagano sempre meno la tassa sulla Confindustria. E beh, che c'entra questo? E quindi? C'entra perché Radio 24 ovviamente è sovvenzionata anche dalla Confindustria. No, ma è solo sovvenzionata dalla Confindustria. È della Confindustria. Siccome ci sono meno industrie perché c'è la crisi. E allora? Dico un segreto. E qualcuno, qualche genio della programmazione della produzione si è inventato. Ma che ne sai? Ti do un segreto. Radio 24 è della Confindustria. Lo so, ragazzi, ci sentiamo domani. Dobbiamo chiudere. Ciao. No, ma non è questo. Ma la senti la musica? Dobbiamo chiudere per forza. Ciao. Ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio, voglio ridere. Ti prego. Radio 24. La passione si sente.